9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Ed eccoci qua in una versione, diciamo, io tento di venirvi incontro, visto che dite che sono sempre troppo pessimista. Oscar Genio che vi saluta e che naturalmente in questo mercoledì 25 di luglio fa gli auguri a tutti coloro che si chiamano Giacomo, si festeggiano oggi. Dicevo, io tento di venirvi incontro perché voi dite i Doors portano sfiga, e intanto oggi 540, nel senso che c'erano delle buone ragioni per ammonirvi del fatto che purtroppo i mercati continuano a interpretare il presente e il futuro come il giorno per prendere a cornate i paesi deboli, e l'Italia è in prima fila insieme alla Spagna. Che dicano i più di giornali italiani, che naturalmente tendono a presentare l'Italia come totalmente incolpevole. E la colpa è degli cattivi speculatori, delle cupole americane, dei tedeschi che non capiscono, di tutto e di più. Naturalmente degli altri, perché gli italiani sono così. Ed ecco perché vengo anch'io, no tu no, che è la canzone che il mondo riserva a chi crede di dire che la colpa è sempre degli altri. Le tasse però le paghiamo sempre solo noi, non loro che hanno le colpe vere. Torniamo a Iannacci, va. Scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Eccoci qua, e temo che nelle prossime settimane, come trovate su tutti i giornali, tutta la stampa europea, è inutile che io mi metta a fare oggi rassegne, il tema diventa chi resta escluso dal vengo anch'io, no tu no, in Europa, se ci restiamo noi insieme alla Spagna, alla Grecia, fuori dall'euro addirittura, se si riesce a contenere, nessuno ha più idea di come. Guardate questa vicenda degli spagnoli che dicono ieri pomeriggio c'è una presa di posizione congiunta degli italiani e francesi, gli italiani e francesi che dicono subito: ma gli spagnoli sono impazziti, come si dice, che credono che abbiamo la lebbra come loro. Ecco, un'Europa in cui ai mercati si dà l'impressione che oramai una presa di dichiarazione di posizione congiunta non solo non c'è, ma gli accomunati alla Spagna hanno visto gli spagnoli come se improvvisamente vedessero gli untori per le strade di Milano dei tempi dei promessi sposi. Dà l'idea perfetta di come oramai non ci si stringa neanche la mano in Europa, cioè si dica: ma tu c'hai la peste? Ma fammi vedere sotto l'ascella se c'hai il bubbone. Ecco, siamo ridotti così. Venga anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? E allora tuttavia anche i tedeschi hanno poco da ridere con questo peggioramento dell'outlook che è loro riservato da Moody's. È molto divertente vedere come i giornali tedeschi reagiscano a questo peggioramento dell'outlook che li riguarda e che si aggiunge all'andamento che è diventato negativo degli indici degli ordinativi e degli indici di fiducia per le imprese tedesche e all'evidente rallentamento che c'è nell'export sia extraeuropeo che intraeuropeo, come evidente in questi mesi per effetto dell'andamento congiunturale. E allora, se voi prendete due giornali tedeschi, avete che su Deutsche Zeitung, dice che in realtà l'abbassamento dell'outlook da parte di Moody's verso la Germania aiuta la Merkel, non è che rappresenta un problema, perché è la linea di rigore della Merkel che a questo punto non può che rafforzarsi. Mentre invece il Welt scrive che questo abbassamento dell'output da parte di Moody's ottiene l'effetto, vogliono spingere la Germania all'unione dei debiti con i paesi eurolatini, mai e poi mai. Questo per farci capire come in realtà una cosa che è elementare, visto che l'effetto dell'eurocrisi fa esportare meno e crescere meno anche i tedeschi oramai, viene letto anche in Germania nella maniera più divisa del mondo. Allora, questo è lo scenario. Oggi siamo a quota 540 con lo spread. Sapete perfettamente che dopo un paio di settimane in cui restiamo a queste quote c'è un piattino, e il piattino ne abbiamo già parlato, torneremo a parlarne. Qual è un fondo che obbliga l'Italia all'abbattimento del debito pubblico, cosa che lei non ha voluto fare da sola, tanto per cambiare, sempre scambiando l'idea, tutti questi articoli, anche il Sole 24 Ore, compiti fatti, il debito pubblico si è alzato, questo nessun collega mi può dire di no, ed è inutile che noi facciamo la gara a perdonare i politici che questa roba ce l'hanno regalata. Ecco perché, dicevo, oggi ci poniamo tre problemi. Partiremo da un esempio di un'impresa che su un reddito d'impresa annuo di poco superiore a 100.000 euro, cioè di risultato, paga tasse esattamente uguali. Ci faremo raccontare la condizione di questa impresa, che è un po' il simbolo e la ragione di ciò che trovate oggi poi sul quotidiano La Stampa, diretto da Mario Calabresi. Guardatevi perché c'è un bellissimo articolo, una pagina intera, pagina 5, che sintetizza una ricerca della Fondazione Nord-Est sulla sfiducia degli imprenditori tra tasse e calo dell'export, e che testimonia il peggioramento delle aspettative delle imprese italiane. Oggi il quadro del pessimismo delle imprese italiane è enormemente peggiorato rispetto a quello del 2011 e anche rispetto al 2010, che erano due anni invece di ordinativi esteri che tiravano e in cui sembrava che l'Italia si stesse mettendo un pochino in regola sul mercato interno, fino poi all'esplosione da metà del 2011 a oggi. Primo caso questo. Secondo caso, ci poniamo invece una questione politica. Pensavo di iniziare da quella, ma il nostro ospite, che sarà il direttore del Fatto, Antonio Padellaro, lo avremo con noi dopo le 9.30. Perché la domanda che mi faccio è: ma tutto questo sferragliare improvviso verso le elezioni a ottobre non è che una regia del Quirinale per governare dal Quirinale, facendo cambiare la legge elettorale subito? Il fatto che così si conferma Monti, in ogni caso si fa un Parlamento in cui non c'è nessuno che vince, tutti restano così come sono oggi e andiamo avanti allo stesso modo, è giusta questa interpretazione? E soprattutto è utile all'Italia una prospettiva di questo tipo, di Monti che resta e di Quirinale che resta regia? Perché è ovvio che dopo la prossima primavera non sarebbe più Giorgio Napolitano il regista di questo. Terzo, vedremo poi ancora esempi di comuni dal basso che si uniscono senza aspettare spending review, decisione del governo, perché capiscono che non si regge più e bisogna unirsi, perché questo è quello che chiede la gente: risparmiare risorse per avere servizi più efficienti. Ma cominciamo con questo caso che veramente parla da solo, per così dire. È un imprenditore, si chiama Monti anche lui, ma non è parente, si chiama Saverio Monti, che ci ha segnalato con la sua lettera e mandandoci l'intero fascicolo del bilancio della sua azienda. È un'azienda che opera da 70 anni nel settore siderurgico dei laminati d'acciaio, è un'azienda che quindi compra, raccoglie e poi li adatta alle misure chieste dai clienti, e ci ha mandato una segnalazione relativa al bilancio 31 dicembre 2011 della sua azienda, dicendo: le ultime tre righe del documento spiegano bene il problema che tutti gli imprenditori hanno in Italia. Terza ultima riga: risultato prima delle imposte 101.057 euro. Poi la penultima: totale imposte sul reddito di esercizio 100.179 euro, cioè 100.179 euro di imposte su un risultato di 101.057. Voi capite che quello che resta sono 878 euro su 101.000 euro. Ecco, su queste tre ultime righe, poi ci hanno mandato tutto il fascicolo, abbiamo avuto modo di verificare, eccetera, eccetera, Abbiamo a questo punto immediatamente deciso di chiamare l'imprenditore di questa azienda, che da 70 anni sta in un settore che tutti poi si ostinano a considerare maturo, perché è ovvio che la siderurgia è una roba in cui i costi di produzione dei paesi a basso costo sono diventati sempre più impegnativi, in cui l'Italia è rimasta come tutti i paesi a maggior costo, puntando sul maggior valore aggiunto naturalmente delle lavorazioni e delle qualità degli acciai. Ma certo, quando poi si vive in un paese in cui si incorporano 500-600 punti base di credito in più rispetto ai concorrenti tedeschi, quando poi la banca il credito te lo fa, quando si paga il 30% in più in energia rispetto ai colleghi tedeschi, quando si pagano 100.179 imposte su un risultato di 101.057 euro, voi capite bene che chiedere poi all'impresa di continuare a restare aperta e di offrire lavoro è più o meno come chiedere alla Madonna di Lourdes di venire tutti i giorni a risolverci i problemi. Allora, abbiamo chiamato Saverio Monti, io lo ringrazio della sua segnalazione, buongiorno, grazie, e ci dica: ma voi ogni anno pagate queste tasse di queste proporzioni? Come avete fatto ad arrivare all'anno del Signore 2012? Buongiorno dottor Giannino, a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie di averci richiamato. Ma per fortuna non tutti gli anni la situazione è questa. Se andiamo a vedere i bilanci degli anni scorsi, diciamo dal 2007, gli ultimi 5 anni, il livello di tassazione era quantomeno nei limiti, compresi tra il 45 e il 55, 60% di tassazione. Ora nel 2011, anno del Signore 2011, anche noi, quando lo studio commercialista che ci segue, il nostro responsabile amministrativo interno e il collegio sindacale, che ovviamente verifica tutto quanto facciamo, ci ha comunicato questo dato, ci siamo rimasti male come minimo. Diciamo che le condizioni per cui si è arrivato a questa tassazione così elevata sono diverse, in particolare ha pesato molto l'IRAP per oltre 60.000 euro, IRAP che comunque sarebbe stata dovuta in questo importo anche in caso di perdita dell'azienda prima delle imposte, questo da ricordare. Noi per fortuna non ci siamo mai trovati negli ultimi anni ad avere bilanci in perdita, anzi bilanci sempre molto positivi, ma l'IRAP si sarebbe dovuta pagare comunque. IRAP che ha questo valore così elevato soprattutto perché, così risulterebbe da quanto ci hanno spiegato, i costi del personale, del nostro personale, sono aumentati notevolmente nell'ultimo anno, tra 2010 e 2011, per oltre 200.000 euro. Questo dovuto al fatto che abbiamo assunto 3 persone nell'anno 2011 e abbiamo anche dato ai nostri dipendenti, che avevano lavorato molto bene perché abbiamo avuto un incremento di fatturato notevole nell'anno, un premio di produzione abbastanza importante. Ecco, questo... Quindi non solo voi siete dei matti che tenete a lavorare parecchia gente, ma gli date pure i premi di produzione e il risultato, sì, è giustamente che lo Stato dice: siete pazzi, io vi tasso. Dal 2008 al 2011 compreso, tutti gli anni, e sarà così anche il 2012, noi diamo un importante premio di produzione perché l'attività sta andando abbastanza bene, ecco, nonostante tutto, abbastanza bene per le condizioni che ci sono nel mercato, che ci sono in Italia, in Europa, nel mondo, perché noi esportiamo quasi il 50% di quanto produciamo. Però la situazione poi delle tasse e della burocrazia e della giustizia lenta, che sono i 3 macro problemi che ogni giorno io mi ritrovo sulla scrivania, e alla fine si dedica la maggior parte del tempo a questo piuttosto che ad andare a trovare i clienti, a trovare soluzioni magari innovative per la produzione, fornitori più disponibili rispetto a quelli attuali. Ecco, il tempo alla fine è quasi tutto dedicato a queste 3 macro problematiche. Senta, lei nel tempo, non voglio chiederle, perché questo appartiene alla riservatezza, al suo pieno diritto di tutela della riservatezza delle sue scelte pubbliche, ma nel tempo, in questi anni della Seconda Repubblica, in questi 18 anni, ha creduto a qualcuno degli impegni che dicevano tentiamo di diminuire il gap che c'è rispetto a paesi concorrenti, a imprese omologhe alla sua, alla vostra, che lavorano per esempio in Germania? Se dovessi tirare un bilancio adesso e dare un consiglio alla classe politica, mentre in queste settimane rischiamo di andare a gambe all'aria che ci impongano un piattino amaro per l'abbattimento del debito pubblico, che è il nostro problema mai risolto da questa classe politica. Lei direbbe ai politici che cosa? E di quelli che dicono, sapete che c'è, come per esempio oggi titola Libero, che dice mamma li crucchi, torniamo alla liretta. Allora, lei è di quelli che dice torniamo alla liretta, svalutiamo, facciamo inflazione, freghiamocene, non abbiamo e non avremo mai la forza e il rigore dei tedeschi? Oppure dice ma che? Date una botta al patrimonio pubblico, al debito pubblico, e abbiamo la forza sia di stare nell'euro che di starci a testa alta. No, io direi sicuramente la seconda ipotesi, con un po' di ottimismo che deve caratterizzare chi fa attività di impresa, soprattutto in Italia, deve essere molto l'ottimismo, direi la seconda ipotesi. Quindi bisognerebbe veramente trovare delle soluzioni, tipo quella della vendita del patrimonio di tutto quanto lo Stato italiano ha e che ogni anno prende, perché ricordo di questi 100.000 euro che noi pagheremo in tasse nel corso di questi mesi, relativi all'anno 2011, vanno poi al socio principale della nostra azienda, che non è mai qui presente, però poi incassa, e quindi di soldi probabilmente lo Stato italiano ne ha tanti, ne spreca tantissimi, ma ne ha tanti e ogni anno ne recupera tanti. Lei parla dei cosiddetti tedeschi, crucchi tedeschi. Guardi, semplicemente quando vengono a provarci dei nostri clienti o fornitori tedeschi, si fanno due parole, magari a pranzo, e io spiego che io spendo oltre 200 euro al mese solo di autostrada per venire qua in ufficio, e allora gli austriaci mi raccontano che loro spendono 50 euro per tutto l'anno per viaggiare in autostrada, e poi noi abbiamo anche il bollo e adesso il super bollo, loro pagano delle cifre che noi neanche ci immaginiamo per il mantenimento di un'autovettura. Questo è un piccolissimo esempio che però riportato su tutti gli altri aspetti della vita dell'azienda. Come prima ho parlato del costo del personale, a me piacerebbe che i 200.000 euro e passa che noi abbiamo aumentato come costo del personale in quest'ultimo anno andassero nelle tasche dei dipendenti, nelle tasche dei nostri collaboratori, ma non è proprio così. Cioè, le tasse sul personale non sono in questi 100.000 qui, sono già state pagate nella parte alta del bilancio in percentuali assurde. Se in Italia per compilare il modello unico 730 una persona deve leggersi le istruzioni alla compilazione del modello unico, sono lunghe 100 pagine, le istruzioni alla compilazione, e quindi poi si deve rivolgere al commercialista, al CAF, eccetera. Queste sono tutte cose incredibili che se le raccontiamo ai nostri colleghi degli altri paesi non riescono a rendersi conto, non se ne rendono conto. Guardi, io la devo ringraziare non solo perché si espone con la sua impresa a un esempio pubblico, perché poi non fa piacere a nessuno, come ovvio, però il caso è così eclatante che su un risultato prima delle imposte di 101.000 euro di tasse ce ne siano 100.179, che è un esempio che tra l'altro sta scatenando nei messaggi che arrivano a 349-238-6666 ondate di commercialisti e professionisti che ci dicono no, io ho decine di imprese pronte che vengono a testimoniare di pagare imposte anche superiori naturalmente al risultato ante imposte, quindi sul reddito, io non ve lo auguro ovviamente, ma purtroppo questa è la norma. Perché vi la ringrazio? La ringrazio perché sono testimonianze dirette di uno stato d'animo che io spero resti vivo. Io non vorrei mai che nel travolgere della crisi, cioè nelle pali di elicottero che si iniziano a sentire dei men in black, degli uomini in nero del fondo monetario, che potrebbero arrivare entro due settimane e dirci adesso vi imponiamo noi per 10 anni 10 punti di gettito fiscale per abbattere il debito pubblico e ci fate la cortesia di fare anche una bella patrimoniale sul patrimonio degli italiani. Io per rispetto di chi ci ascolta devo dire che al Tesoro già stanno studiando misure d'emergenza di questo tipo, perché bisogna essere pronti ad attuarle prima che arrivi il fondo monetario a quel punto, e questa sarebbe la debacle ultima che ci riserva lo Stato tassico dipendente e ladro e stupido prima che ladro prima che stupido, lo dico con tutta l'amarezza del caso, non me la prendo con nessuno in particolare. Ma perché ringrazio Saverio Monti? Perché invece ci testimonia l'esistenza, la forza di un tessuto di impresa che dà lavoro e che per questo paga più tasse, perché continua a voler dare lavoro, che dice guardate che non bisogna essere travolti dalla demagogia, non date retta a chi dice torniamo alla liretta perché forse tende a non dirvi che così si svaluta però del 30, del 40% il valore reale dei vostri redditi, patrimoni detenuti in Italia rispetto al resto del mondo. Noi possiamo farcela, se solo però abbiamo la forza e la capacità di mettere dietro le sbarre a severa cura disintossicante lo stato tossicodipendente, che è il problema alla radice di tutto, di questa tassazione, della regolazione, del mix energetico folle che ci abbiamo. Questa è, per me, fino a che ci sarà un pezzo di lavoro italiano, impresa italiana, capace di tenere la testa a posto e di sapere indicare con ragionevolezza, senza sfasciare le vetrine, ma anche con tutta la durezza del caso, che è il vera ragione del nostro problema è lo Stato italiano, non i crucchi tedeschi, che non capiscono tante cose. L'euro l'abbiamo fatto male tutti, non è che ce lo hanno imposto loro coi talloni della Wehrmacht. Allora, però l'Italia ha la possibilità di risolvere, se riprende un minimo di ragionevolezza e scommette sul lavoro e sull'impresa, invece che contro se stessa, solo per lo Stato che pretende di avere ragione. Vi siete fatti la riflessione, cari amici in ascolto, di uno Stato che, mentre tutti tirano la cinghia, mentre le famiglie italiane si vedono i redditi peggiorati rispetto a 20 anni fa, si autoriduce del 15% per decreto i suoi affitti? Piacerebbe anche a voi, vero, autoridurveli gli affitti? Che ne so, le rate del mutuo che pagate, non vi piacerebbe averle ridotte del 15%? E invece lo Stato lo fa per decreto, decide che paga meno i proprietari privati degli immobili che occupa. Non è che libera gli immobili, capite, per lasciare la proprietà libera, no, decide per decreto che pagherà affitti inferiori, e quindi non solo vi dà un ceffone, come fa lo Stato, il monarca assoluto rispetto al suddito che invece paga di più, ma incorpora anche nelle tasche dei proprietari privati di quegli immobili un danno patrimoniale, perché la diminuzione della rendita, ovviamente, da canone d'affitto, è una diminuzione del valore patrimoniale di quegli immobili. Uno Stato che si comporta così è da prendere a calci, perché troppo prende a calci noi. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no. E allora torniamo con Enzo Iannacci, perché il no tu no, vengo anch'io, no tu no, è un po', siamo per tirarsi su, si fa per fidire, il morale rispetto allo spread a 5,40 e a tentare di capire se in Europa prevalga una logica cooperativa o se invece la storia diventi di chi viene lasciato fuori, come in questa autoironica e non troppo demenziale canzone anticipatrice di quel genio di Enzo Iannacci. Allora, veniamo al punto politico, lo avevo annunciato in apertura di trasmissione. Il punto politico è questo, a proposito di Vengo Anch'io. C'è o non c'è, come sembra in questi giorni, in queste ultime settimane, una specie di sferragliare convergente da parte del Quirinale, grande regista politico, e poi del PDL, Berlusconi in prima fila, di pezzi del PD e naturalmente del centro, che non va convinto, è forse il più convinto di questo quadro, di questa regia, del seguente scenario: portiamo tutti a fare una bella riforma elettorale in maniera che nessuno vinca, A, B, andiamo a votare ottobre, C, in maniera che nessuno abbia ben vinto e quindi ci sia lo stesso capo dello Stato che incardini la continuità col governo Monti, forse con lo stesso Monti, perché questo è il meglio che si possa fare, perché gli italiani non sono in condizione di decidere, e allora assicuriamoci che tutto resti così com'è. Allora, la domanda che faccio al direttore del Fatto, Antonio Padellaro, perché? Perché mi è sembrato che in queste settimane i colleghi del Fatto siano i più reattivi di fronte a uno scenario di questo tipo, siano quelli che fanno le domande più esplicite, più taglienti, cioè che non accettino questa specie di finto conformismo per cui chi pensa bene dell'Italia deve per forza dire beh, meglio così, facciamo i responsabili, eccetera eccetera, e che invece vi sia poi una parte di gente che, per così dire, recita questa parte ma fa finta di non recitarla. Il PDL, che da una parte è in prima fila impegnato, dall'altra poi fa le forzature in Parlamento col semipresidenzialismo. Tutti sappiamo che naturalmente non passerà mai, ma ci becchiamo le interviste di Cicchitto che invece ci spiega che è dietro l'angolo, e mi scappa da ridere. Oppure Giuliano Ferrara, che poi dice ecco i veri nemici di Monti, Napoletano, non un capo che esce allo scoperto, D'Alema, che è la maniera per il lettore del Foglio di dire bestia nera contraria, quindi giusta la linea di andare a questa convergenza. Allora, per questo al direttore del Fatto io chiedo: esiste questa manovra di convergenza? E se esiste, ma perché bisogna accettarla? Buongiorno e grazie ad Antonio Padellaro che sta con noi. Buongiorno Oscar. Allora, se mi permetti vorrei partire da un ricordo d'infanzia, quando nelle case paterne i grandi parlavano in salotto, poi a un certo punto i bambini stavano là, assistevano alle conversazioni dei grandi, poi a un certo punto i grandi dicevano ai bambini: beh, adesso andate a giocare di là. E perché i grandi dovevano parlare di cose serie, impegnative, che i bimbi non potevano ascoltare. Allora mi sembra tanto la situazione italiana, dove ci sono dei partiti che sono stati, che vengono ammessi ad assistere al commissariamento di fatto di questo paese, so che è un'espressione a te cara, diciamo, fanno la loro parte, partecipano alle discussioni, poi quando sarà il momento delle decisioni verranno invitati gentilmente ad accomodarsi in un'altra stanza. Cosa voglio dire? Che la riforma elettorale sarà esattamente disegnata su quelle che sono le esigenze del governo tecnico. Governo tecnico che non è evidente che non esaurisce il suo mandato nei prossimi mesi o nel 2013, perché il governo tecnico è l'espressione diretta di quel commissariamento europeo di cui ormai siamo tutti testimoni. E quindi faranno i loro giochini, metteranno a punto la loro riforma, andremo alle elezioni a ottobre, non lo so, ad aprile è probabile. Dopodiché questo Parlamento, il nuovo Parlamento si accomoderà e il governo tecnico, probabilmente guidato da Monti, o forse sì o forse no, ma non è molto importante, affronterà la nuova legislatura con un programma già definito, che è l'agenda Monti. Cioè qui abbiamo una situazione già sotto certi aspetti precostituita. I partiti non hanno la forza, non hanno la credibilità, non hanno l'energia per opporsi a questo scenario. Possono soltanto, e lo spiegava molto bene giorni fa su Repubblica il professor Zagrebelsky, accontentarsi di vivacchiare all'ombra del commissariamento che è destinato a protrarsi per le ragioni che tu spiegavi poco prima che io prendessi la parola. Ma ti faccio una domanda: mentre io capisco l'ombra di quel che resta, che però è amplificata come un'ombra cinese, cioè un'ombra piccola ma con un gioco di luce sulla parete retrostante bianca, diventa un'ombra grande, quella di Berlusconi, l'ombra cinese di Berlusconi, posso capire, quello si deve difendere, lui deve difendere la sua azienda, non capisco chi resta nel PDL, ma quelli sono fatti loro, posso capire che dice: tanto io non ho nessuna chance di vincere un'elezione, di governare, e quindi meglio questo con sottoscritto Berlusconi, che fa la parte del responsabile e si guadagna crediti. Quello che non capisco, e chiedo a te, è come mai la sinistra dovrebbe accettare, il PD dovrebbe accettare uno scenario nel quale accetta l'idea che non c'è più il premio di maggioranza, in base alla quale oggi vince lei, poi dipende da lei che alleanze fare e che programma prendere, però intanto dovrebbe accettare l'idea che non vince e fare una legge elettorale così. Uno. Due, accettare l'idea di essere nelle stesse condizioni di Berlusconi, cioè dice: ci conviene rinunciare al diritto di provarci e guadagnare crediti, con la differenza che per Berlusconi capisco che sono personali per l'impresa, per il PD non riesco a capire quali siano. Ma perché il PD dovrebbe fare questo? E soprattutto, ma non si spappola un PD che andasse a una scelta di questo tipo? Per quanto poi i grandi quotidiani, il Quirinale, questo concerto convergente dovesse raffigurare al PD come una scelta di grande responsabilità nazionale, ma quando uno decide di non essere in grado di giocare e di vincere, vuol dire che semplicemente è una scelta che parte dalla consapevolezza di essere dimidiati, di non essere all'altezza. Come può avvenire questo a sinistra, secondo te? Beh, è una giusta domanda. Con lo spread a 540, immaginati un governo Bersani. No, ma con tutto il rispetto per Bersani, per carità, che secondo me potrebbe essere un ottimo premier in condizioni normali, ma quale esponente di partito oggi in Italia potrebbe caricarsi sulle spalle un peso così gigantesco come quello di una situazione che è la situazione di oggi, no? Il nostro è un paese che naviga a vista, un po' come tutta l'Europa. Quindi io la prima risposta che do è che paradossalmente oggi guidare un governo in queste condizioni non è una fortuna, ma è esattamente il contrario, può essere effettivamente un danno, può essere un problema, può essere un pericolo, può essere anche un'incapacità di sapere dove andare. Secondo, questa è una mia opinione personale, ma non so se tu la condividi, io credo che il leader della sinistra non è Bersani, non è D'Alema, non è per carità Veltroni, è Napolitano. Beh, il Partito Democratico ha è eteroguidato non da oggi, dal Presidente della Repubblica. Tu sai che il fatto non risparmia critiche a Napolitano, ma bisogna riconoscergli una lucidità, chiamiamola così, politica e una visione, e che nel Partito Democratico non c'è. E quindi finché c'è Napolitano, io ho l'impressione che il Partito Democratico, torto collo, seguirà i dettami del Colle. È evidente che tutto questo, l'adesione a una nuova agenda Monti, con Monti o senza Monti, provocherà certo delle fibrillazioni, delle tensioni dentro il Partito Democratico, che già si vedono del resto, però poi alla fine si comporranno di fronte a una situazione di emergenza che è destinata, ho l'impressione, a durare parecchio. No, questo anch'io, perché la situazione è terribile, riguarda appunto l'euro, l'Europa in quanto tale, di fronte al mondo, cioè ci siamo messi in condizioni da far perdere Obama alle elezioni, cioè tanto per dirne una, quindi figuriamoci, penso anch'io che sia così. La cosa che mi meraviglia è, di fronte ad altri paesi europei che pure stanno nella stessa crisi, non nelle stesse condizioni di gravità come l'Italia, che sono solo paragonabili a quella della Spagna e della Grecia, però dice una sinistra che dice vabbè, noi ci proviamo a continuare a fare politica e a vincere. Qua è una specie di chi alla fine accetta l'idea di farsi commissariare sempre, finisce fuori campo e non rientra più neanche in panchina, non so come dire. Sì, devi aggiungere un altro elemento. Tu facevi l'esempio di altri paesi europei, è evidente che l'esempio della Francia è quello più interessante per noi, dove c'è stato un cambio di governo, è andato via Sarkozy, è arrivato Hollande, dove però la situazione dei partiti dal punto di vista della credibilità, dell'autorevolezza, è migliore che la situazione italiana. In Italia la credibilità dei partiti è pari al 4% di gradimento, sono le percentuali per quello che valgono dei sondaggi. Quando si chiede quali sono le istituzioni in cui avete più fiducia, i partiti politici sono all'ultimo, al penultimo posto, e questo è un fatto abbastanza particolare della situazione italiana. Questi partiti non hanno la credibilità necessaria per rivendicare il ruolo che giustamente potrebbero rivendicare in una democrazia parlamentare. Alla fine è un po' singolare dirlo, ma la presidenza Napolitano, se finisce così, è una specie di megapatto della crostata dei vecchissimi tempi, in cui centrodestra di Berlusconi all'inizio e centrosinistra, che tentava di prendere sul serio Berlusconi, tornano a una condizione pressoché obbligata di farsi le crostate. Ma non c'è dubbio. Tornando a Berlusconi, perché è anche interessante questo ritorno, non ritorno, vediamo, aspettiamo, che è anche abbastanza un po' buffo, no? Io ho l'impressione che Berlusconi stia valutando se gli conviene staccare la spina non al governo Monti, ma staccare la spina a questo partito, al Popolo delle Libertà, sì, oppure sì, no. Sì, sì, sì, infatti. Perché ho l'impressione che lui, che comunque è uno che non partecipa alle partite partendo da sconfitto, e quindi mi sembra abbastanza paradossale se lui si mettesse in campo in una situazione di sconfitta complessiva dei partiti e in particolare del suo partito. Ho l'impressione che lui voglia capire bene in che direzione si va. Questo voto un po' sul questo voto così che lascia il tempo che trova sul semipresidenzialismo potrebbe far pensare a una sua ideuzza di elezione diretta del capo dello Stato, ma siamo secondo me nel mondo della fantasia. No, no, siamo al mondo del, come si dice, carotaggi vari e diversi per vedere quale poi colpo di scena, colpo di teatro fa. Anch'io me lo aspetto. Berlusconi tenterà di animare, in ogni caso lui ha bisogno di una forte trincea difesa personale dell'azienda. Io lo dico secco così e mi dispiace perché molti ascoltatori insorgono dicendo: ah, gli argomenti anti Berlusconi. No, gli argomenti sono 18 anni di vita, adesso non vorrei dire 18 anni che sono squadernati di fronte a noi, cari ragazzi. Poi se voi pensate, alcuni ascoltatori pensano che Berlusconi sia l'eroico leader che vincerà le elezioni di 18 anni fa, ma perfetto, ognuno è legittimo di pensarla così, però insomma diciamo che i fatti sono un po' diversi. Io penso che e ringrazio Antonio Padellaro e i suoi colleghi, che abbiamo bisogno di una stampa capace di aprirci gli occhi e le orecchie di fronte a ciò che viene presentato dal mainstream, dal dibattito convergente dei grandi media come un posizione di responsabilità nazionale, che metta in crisi queste letture, che ci dia elementi critici, come è avvenuto per esempio anche di fronte alla relazione del Quirinale sul conflitto di attribuzione sollevato nei confronti della procura di Palermo, dicendo: noi se finiamo intercettati non siamo come i ministri eccetera delle vicende di questi anni, purtroppo. Ecco, trovo sempre di più che il fatto sia in queste condizioni. Per questo ho chiamato il direttore Antonio Padellaro, che ringrazio per questo suo intervento. Non si tratta, cari ascoltatori, lo dico per chiarirvi le idee quando insorgete su partiti contrapposti, non si tratta di avere un partito contro l'altro, si tratta di tentare di leggere la situazione italiana con qualche elemento critico. Io sono per cambiare l'offerta politica dal basso, non sono per accettare l'idea che devono restare questi partiti come stanno e come sono, e anzi certificando l'idea che dobbiamo tenerceli, uno, due, nessuno però deve vincere, tre, e quindi continuiamo a officiare un rito cambiando addirittura le regole del gioco perché lo stesso Presidente della Repubblica ci faccia lo stesso governo. Ma io perché devo rimanere a fare contribuente di un'Italia in cui non conto un cazzo e non c'è nessuna possibilità di dire nemmeno una volta ogni 5 anni che bisogna cambiare dal basso? Ma tanto vale andarsene a pagare le tasse meno, più efficientemente, altrove. Questa è la mia conclusione. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Va bene. Oh ragazzi, sarà l'effetto del vengo anch'io, ma eravamo a 541 punti un'ora fa di spread, siamo a 532. Se va così Annacci lo tengo, perché l'effetto di Annacci tentiamo nei prossimi giorni di testarlo. Se fosse questo, ragazzi, vi siete conquistati sul campo un po' di vengo anch'io, no. Ma ricordate la strofa: si potrebbe andare tutti al tuo funerale. E questo poi è il punto. Lì io non ve la metto, però il giorno che vedete che parte quella, allora siamo a 560. Ragazzi, il metti, guardate i cieli, gli elicotteri, gli uomini in nero che sbarcano, e a quel punto avremo una bella canzone da mettere che vedrete nei prossimi giorni. Se diventa più nera la situazione, abbiamo dedicato una canzone a Christine Lagarde, metteremo anche quella. Quindi vi do un criterio interpretativo della nostra segnaletica, per così dire, canzonettara. Jim Morrison, perdonami, ti sto veramente accomunando a delle cose di fronte alle quali la notte verrai a torturarmi. Ecco perché i gatti vengono la notte a mordermi. Allora, ultima parte della trasmissione dedicata all'Italia che invece capisce che si dà da fare ai livelli amministrativi e istituzionali, che non aspetta le ondate, che non aspetta i downgrading, ma dice: ragazzi, qua non ce n'è, dobbiamo metterci insieme perché le risorse sono meno, la gente è incazzata, paga troppe tasse, vuole servizi più efficienti. E stiamo andando avanti con esempi di comuni e amministrazioni locali che hanno deciso autonomamente di percorrere la strada di unire o i servizi o di unire addirittura i comuni. Oggi abbiamo con noi Riccardo Nocentini, che è il sindaco di Figline Valdarno, comune provincia di Firenze, e Fabrizio Giovannoni, che è sindaco di Incisa in Valdarno, sempre in provincia di Firenze. Io saluto entrambi. Nocentini, buongiorno. Salve, buongiorno a voi. E Giovannoni, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie. Allora, Nocentini, cominciamo da una cosa tragica, perché pare che persino la squadra di calcio, niente. addirittura anche le squadre di calcio, ma considerate che il campanile tra le tifoserie di Figline e di Incisa era enorme. Alla fine delle partite si diceva: se vinci vai in Arno, se tu perdi tu vai in Arno, quindi comunque la finiva a botte e finiva in Arno. E da lì invece ora siamo arrivati a fare una grande squadra giovanile con oltre 300 bambini e ragazzi, quindi mi sembra si sia fatto un passo in avanti. E sottolineo che l'associazione sportiva del calcio, ma non è l'unica, ci è arrivata ancora prima delle istituzioni e della politica. Allora, lei è alla testa, no, Centini, come sindaco di Figline, del comune maggiore, sono più di 17.000 abitanti, Incisa Valdarno ne ha 6.400 più o meno circa. Però voi avevate già tentato un'unione di comuni che però era fallita anni fa. Allora, diciamo, il progetto di fusione tra Figline e Incisa nasce da un naufragio, nasce dal naufragio dell'unione dei comuni a tre, di Figline, Incisa e Rignano. Avevamo fatto tutti gli atti anche di consiglio comunale, poi Rignano ha deciso di andare con un'unione dei comuni che derivava da una comunità montana, quella della Val di Sieve. Allora noi, anziché, come dire, sentirci isolati e piangerci addosso, abbiamo detto: buttiamo il cuore oltre l'ostacolo, non facciamo solo un'unione dei servizi e quindi un'unione dei comuni, ma facciamo una fusione vera e propria, quindi di due comuni se ne fa uno e in qualche modo si cambia qualitativamente il nostro modo di essere e di governare i nostri cittadini. Giovannoni, ma gli abitanti, i cittadini del comune, che rispetto a Figline, quello di Incisa, è significativamente più piccolo, sono convinti di più, di meno, o proprio perché è più piccolo e quindi il bacino è ancora meno ottimale dei servizi pubblici da offrire, non hanno paura, al di là delle consueti inimicizie toscane che fanno parte dei secoli della vostra storia, ma non hanno paura di perderci rispetto al comune più grande? Ma guardi, io penso questo. Noi, innanzitutto, il nostro partito, il PD, ha fatto a suo tempo un sondaggio guidato da una società del settore, dove è risultato che fra i due comuni c'era un 80-85% di favorevoli all'unione. Questo è un dato. Ma io mi rendo conto che il mio paese più piccolino senz'altro avrà più difficoltà, però io credo che la gente sia molto più matura della sua classe dirigente e credo che capisca che o ci si unisce insieme agli altri oppure i comuni faranno sempre più fatica a erogare servizi, a dare risposte alla cittadinanza. E quello che mi viene detto a me negli incontri, ma in maniera molto semplice, mi viene semplicemente detto: se ci si guadagna, se si migliora servizi, per noi va bene. Ecco perché dico, forse abbiamo una cultura fra la gente molto più interessante. Eh sì, perché temo che poi la gente dica: beh, tutto sommato, se ci si guadagna con i servizi rispetto a quello che si paga. Senta, Nocentini, adesso qual è la decisione, dopo che i consigli comunali si sono espressi, hanno votato le mozioni eccetera, di cosa siete in attesa? Di una legge regionale che dica i comuni sono fusi? Allora, la legge regionale è già in corso di elaborazione. All'interno della legge regionale, il prossimo anno, nel 2013, a maggio, ci sarà l'espressione referendaria nella quale i cittadini diranno se sono d'accordo o meno, perché questa iniziativa è partita prima dai due sindaci. Addirittura lo scorso anno l'ho messa al primo punto del programma elettorale per l'elezione la seconda volta, e poi anche le forze di opposizione hanno fatto proprio questo tema, quindi i consigli comunali di Figline e Incisa ci hanno detto: andate avanti approfondendo questo tema, andate avanti e chiedete alla regione di fare la legge. Noi abbiamo chiesto alla regione di fare la legge, all'interno della legge abbiamo previsto che i cittadini si esprimano con referendum, perché quando si tratta di una cosa così importante, riguarda il futuro delle generazioni della nostra comunità, tutti i cittadini si devono esprimere. Ora, ma in questo caso poi, una volta che è deciso, chi è che si occupa tecnicamente di dire questo è questo ufficio tecnico, questa è questa organizzazione del servizio di pulizia delle strade urbane, questo è questo, funziona in questo questo modo? Chi è che decide delle piante organiche, delle cose, quando si tratta di fondere? C'è qualcuno dall'esterno che viene incaricato, una specie di consulente esterno, pubblico o privato? Oppure vi mettete a tavolino le due amministrazioni prima della fusione e dovrete concordare punto per punto come si ottimizza le risorse? Ecco, è questa l'ultima, tant'è che proprio ieri in Consiglio Comunale a Incisa era già passato, a Figline ieri, è passata l'Unione dei Comuni, un'Unione dei Comuni che durerà soltanto un anno e mezzo e in qualche modo sarà l'architrave organizzativa, cioè il luogo dove andranno il tempo a costruire. Il tempo nel quale si mettono insieme le risorse e si decide insieme come ottimizzare. Cioè, arriveremo in questo modo al Comune Unico avendolo già fatto. Con l'Unione dei Comuni noi non aspettiamo ad avere, non aspettiamo il 2014 le elezioni del nuovo Comune, ma iniziamo a lavorare sui servizi insieme già da subito, in maniera tale che ci sarà il Comune Unico prima del Comune Unico. Allora, appuntamento a quel giorno, per così dire, con Riccardo Nocentini che è il sindaco di Figline e Fabrizio Giovannoni che è il sindaco di Incisa Valdarno, un altro pezzo d'Italia che dal basso secondo me stira sulle maniche, e questo bisogna fare anche nella pubblica amministrazione, ma nell'offerta politica bisognerà farlo. Tra qualche giorno la sorpresa di cui vi parlai il 12 di luglio la vedrete stampata sui giornali, ma per il momento mi fermo qua. Lo spread, ma per il momento non è risalito, ma siamo sempre sopra i 530. Appuntamento a domani contro lo Stato ladro e tassico dipendente.